Vorrà gettare in un sospiro amaro. Per birsi mi risponda, lui mio bene. Non mi risponda, no, è troppo lontano. E ogni ritornella non mi risponda, no, è troppo lontano. È sotto una priscura, che sta dormendo. E ogni ritornella che è sotto una priscura, che sta dormendo. Posi rivigliacu, che andà all'occhio. E ogni ritornella, così rivedi a coro, che andà all'occhio. Pia l'umucatura, si stui all'occhio. E ogni ritornella, pia l'umucatura, si stui all'occhio. Si stui all'occhio, passa all'occhiando. E ogni ritornella si stuia all'occelli, passa all'occhiando. Dammi l'umucatura, lo vai al lago. E ogni ritornella, dammi l'umucatura, lo vai al lago, acqua e sapone. E ogni ritornello, lavo coda a questa puno, poti lo spannano, quattro dei fiori. E ogni ritornello, poti lo spannano, quattro dei fiori. Poti lo mannana, pula stirare. E ogni ritornella, poti l'umannanna, pula stirare. Poti l'ucogliala, napoletana. E ogni ritornella, poti l'ucogliala, napoletana. Poti l'umannucu, venda portare. Ogni ritornella, poti l'umannucu, venga a portarlo. Venduva portacella, al mio bene. E ogni ritornella, venduva portacella, al mio bene. Me da per non dicada, de subamare. E ogni ritornella me lo prendo di cara de subamaru, caperdi li sincille, de stu coro. E ogni ritornella caperdi li sincille, de stu coro.